Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi, sono le 13:32 minuti e 50 secondi, è la seconda edizione di quest'oggi 3 febbraio, l'approfondimento del GR di Radio 24 dedicato alla cronaca italiana. Il 7 agosto di 20 anni fa in via Poma a Roma veniva uccisa Simonetta Cesaroni. Da oggi i giudici della terza corte d'assise di Roma cercheranno di risolvere il mistero che da tanto tempo circonda la vicenda. Il racconto di Andrea Viali. Raniero Busco è accusato di aver ucciso quasi 20 anni fa la sua ragazza. Lei si chiamava Simonetta Cesaroni e il suo omicidio è passato alla storia come il delitto di via Poma, un giallo che da quel 7 agosto del 1990 aspetta ancora una soluzione. È stato il pubblico ministero, Ilaria Calò, a chiedere e ottenere il rinvio a giudizio di Busco. Contro di lui ci sono soprattutto i nuovi esami del DNA eseguiti dal RIS su una macchia di sangue e sul reggiseno indossato da Simonetta, ma anche i nuovi accertamenti sul morso subito dalla ragazza all'altezza del seno, elementi che però non convincono il difensore di Busco, l'avvocato Paolo Loria. Tutto non mi convince, innanzitutto la contaminazione dei tessuti tra corpetto e reggiseno. Secondo, questa labile conclusione di compatibilità generica senza indicare quanto sia questo grado di compatibilità per quanto riguarda la perizia ematica. E poi questa, io ritengo assolutamente kafkiana perizia sul morso, ma assolutamente kafkiana, perché è evidentissimo che è stata costruita semplicemente per arrivare ad una conclusione, che quel tipo di incisione potesse riferirsi o potesse essere compatibile con la bocca di Busco. Oltre naturalmente a contestare queste perizie, porterete anche nuovi testimoni per confermare l'alibi di Busco? Noi abbiamo praticamente 5 persone che attestano di aver visto il soggetto quel giorno sotto casa sua in orari diversi, dalle 4:30 fino alle 7:30, diciamo. Quindi sull'esito di questo processo lei mi sembra abbastanza fiducioso. Sono assolutamente fiducioso, è certo che questo impianto accusatorio non può reggere, già non dovrà reggere all'udienza preliminare, però sa, lì la logica è diversa, no? Ma davanti al vaglio della Corte d'Assise non può reggere un impianto accusatorio di questo tipo. Simonetta Cesaroni fu uccisa con quasi 30 colpi, inferti probabilmente con un tagliacarte mentre stava lavorando da sola nel pomeriggio nell'ufficio della Società Italiana Alberghi della Gioventù. Dell'omicidio furono sospettati, ma poi scagionati, prima il portiere dello stabile, Pietrino Vanacore, e poi il giovane Federico Valle. Ora è la volta di Raniero Busco, sarà giudicato dalla terza sezione della Corte d'Assise di Roma in un processo con il quale la famiglia Cesaroni spera si arrivi finalmente alla verità sulla morte di Simonetta e sul delitto di via Poma. Italia in controluce. Oggi torniamo a parlare di Milano che va verso l'Expo, il grande evento che potrebbe offrire impulso, sviluppo all'immagine dell'ex capitale morale d'Italia. Uno dei temi forti della nostra inchiesta è certamente l'ambiente. Cristina Carpinelli. Nutrire il pianeta, energia per la vita, è lo slogan che guiderà i visitatori dell'Expo 2015 di Milano. Ma cosa significa? I creatori dell'evento dicono sia una frase che richiami alla biodiversità, alla tradizione, alla creatività, all'innovazione nel settore dell'alimentazione. Ancora una volta sentiamo parlare di sviluppo sostenibile e diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta. Bisognerà indagare per scoprire se si tratta di parole svuotate o di idee sulle quali qui a Milano ci si potrà seriamente confrontare. Ma partiamo dal progetto. Pietro Raitano, direttore di Altra Economia. In realtà è tutto ancora, come sappiamo, in fieri. Il nuovo piano è stato presentato da poco, un progetto c'è e sembra che sia un progetto con un impatto ambientale molto basso e che dopo in effetti dovrebbero esserci dei riutilizzi dell'area. Il problema è sempre capire se questo impegno verrà mantenuto e se non si aumenteranno le cubature, le volumetrie e si tradurranno quelli che vengono definiti centri per l'arte, la letteratura in centri commerciali. Resta il fatto che essendo l'alimentazione e la sostenibilità il tema dell'Expo, il progetto è rilevante. Sarà sostenibile? Stefano Boeri è uno dei 5 architetti che ci hanno lavorato. Il tema dell'alimentazione e della sostenibilità è stato interpretato da chi ha fatto il concept dell'Expo come un'occasione per progettare uno spazio, quello dell'esposizione, che è uno spazio inedito, che non è mai stato realizzato in nessuna parte del mondo, cioè un orto botanico planetario dove tutti i paesi verranno a coltivare i loro prodotti, a mostrare come i prodotti vengono trasformati in cibo e in nutrizione. Una parte dell'esposizione, quella riferita ai padiglioni, alle serre, ai padiglioni tecnologici dei singoli paesi, sarà smontabile. E io penso che questa sia una cosa importante, perché noi abbiamo visto nel passato esposizioni trasformarsi in ruderi inutilizzati, inutilizzabili, che hanno poi in qualche modo peggiorato la qualità degli spazi in cui sono trovati a crescere. La struttura portante dunque sarà quasi interamente smontabile, occuperà una superficie molto vasta che ingloberà parte del territorio delle città di Pero e Ro. Tutto bene, ma dopo l'Expo cosa accadrà? Se lo sono chiesti gli architetti milanesi, che hanno commissionato una foto inchiesta sugli Expo che furono. Il mensile Altra Economia ha pubblicato queste foto. Sentiamo il direttore Pietro Raitano. A partire da Siviglia del 92, il primo grande Expo che tutti ci ricordiamo, passando per Lisbona e poi per Hannover, per Saragozza e per la Svizzera, che era un Expo diffuso. La documentazione di questi cinque fotografi ha portato a un risultato abbastanza omogeneo, ovvero le aree dove sono state concentrate le costruzioni per le esposizioni universali, quelle simili a dove dovrebbe, come quella che dovrebbe nascere a Milano, sono sostanzialmente abbandonate. Cosa abbiamo recuperato dagli Expo precedenti che sono documentati da fotografie? Che solo uno in realtà ha funzionato, ed è quello svizzero, che proprio per definizione non era un Expo come lo intendiamo noi, con un'unica area occupata, un'area molto vasta occupata, ma un Expo diffuso, che tra l'altro è proprio la richiesta che stanno facendo gli architetti, cioè un Expo che abbia molte sedi diffuse sul territorio, ognuna delle quali poi sia subito definita per quello che sarà dopo l'Expo, per cui nel progetto dell'Expo già adesso dovrebbe esserci le finalità e quindi l'utilizzo che verrà fatto dopo che i 6 mesi saranno trascorsi, ed è la domanda appunto che facciamo al comitato che lo sta organizzando. Ed è una domanda legittima, considerando il fatto che si parla di ambiente. E insomma, è importante il riciclo e la riqualificazione dei luoghi. Eppure, nonostante le insistenze provenienti da diversi ambienti, dal giornalismo all'architettura, non è stata ancora data per ogni costruzione una definizione di ciò che sarà dopo, quando l'Expo si concluderà. Italia in controluce. Siamo alle 13:40 minuti e 23 secondi. L'approfondimento della nostra redazione dedicata alla cronaca. L'ultima storia di oggi viene da Genova ed è una vicenda singolare, perché forse è l'unica nel suo genere, credo. C'è un pensionato a Genova che è diventato il terrore dei ladri e soprattutto dei borseggiatori in azione sugli autobus del capoluogo ligure. Il racconto di Andrea Ferro. Rondista in azione nella giungla urbana dove l'insicurezza reale e percepita domina gli spazi. Poliziotto non convenzionale a caccia di mariuoli, pronti ad atterrare come falchi su uomini e donne, deboli, indifesi, vulnerabili. Una specie di city angel senza basco, animato dall'ansia di giustizia. È la storia di Gianfranco Sanna, 68 anni, pensionato, genovese. Da più di 20 anni trascorre le sue giornate a pattugliare i bus che pendolano tra i quartieri della Val Bisagno e il centro. Obiettivo dichiarato, fermare i borseggiatori. Racconta che la vocazione è sbocciata dopo aver visto la moglie piangere per aver subito il furto del portafogli sull'autobus. Da quel momento è salito sui bus per vendicare l'offesa, imbracciando lo sguardo come un'arma per incrociare i movimenti sospetti, focalizzare le minacce. Io sono una persona troppo onesta, troppo fiscale, e non posso vedere la gente che ruba, che fa malazioni, che spaccia, che cosa, mi dà fastidio. Io sono troppo... Insomma, la mia onestà mi porta a fare queste cose qua. Sugli autobus gira, cioè per esempio dal lunedì al mercoledì c'è un terzetto di italiani che vengono da Torino, e dal mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ne viene un altro terzetto, e a volte c'è da Lucania, vengono anche le mogli di questi bei tipi. Quando li vedo non faccio casino, non vado a mettermi a gridare quello è un ladro, quello là. Io mi faccio vedere ci faccio segno di scendere, se poi loro sono tanto cretini, tanto ignoranti da continuare a borseggiare la gente anche in mia presenza, e allora poi li lascio fare, poi all'ultimo, una volta colpito, lo fermo, chiamo la macchina, lo blocco, ce la resta in flagranza, magari in base all'articolo, non so se è sempre il 383 del codice di procedura penale, che un cittadino può arrestare un altro cittadino se colto in flagranza di reato. In 20 e passa anni trascorsi a pattugliare i bus, Gianfranco Sanna ha fatto arrestare o denunciare qualcosa come 300 borseggiatori di tutte le razze, di tutte le età. È diventato amico di poliziotti e carabinieri, confidente, collaboratore, memoria storica dei fenomeni predatori che si consumano sui bus. Di pari passo sono aumentati i nemici, quelli che non apprezzano per niente il suo zero, e gliel'hanno fatto capire in tutti i modi. Mi volevano ammazzare, sono venuti di sera, mi hanno fatto la caccia dei cileni, sì, mi hanno anche aggredito, ma c'è stato uno che adesso è in Cile, che è sull'autobus perché non è riuscito a borseggiare degli stranieri, io ero sull'autobus che stavo scendendo, mi ha aggredito sull'autobus, c'è stata una colluttazione fortissima, io non ho paura. 13:43 minuti e 34 secondi, Daniele Biacchessi vi ha raccontato oggi la cronaca italiana nella seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo, dal lunedì al venerdì alle 6:30 e a quest'ora alle 13:30, decine di reportage, servizi, interviste, temi di cronaca, di attualità, un taglio settimanale, un taglio di reportage dunque girato, tutte le puntate disponibili su www.radio24.it, il nostro gruppo che è quasi arrivato a 1000 iscritti, quindi vi potete iscrivere a Radio 24 Italia in Controluce oppure via mail controluce@radio24.it. A risentirci domani alle 6:30.